Tiberio Cattellani dice spazialissimo e lo salutiamo. Ciao Tiberio. E poi? E poi basta. Basta. Intanto è già qualcosa. Aspetti che adesso billa il gifo. No, infatti, tanto arriva, ma infatti, voglio dire, sta su Facebook dalla mattina alla sera, appena vede la foto si fionda. Comunque 180, no, com'è 333 180 94 94. Se volete messaggiarci anche voi, fatelo pure. Ed essere partecipi a questa 280esima. Senti, ma cos'è sta musica di sottofondo che mi hai messo? Che mi sembra di essere nel pensa sia a Montobin. A Montobin, che è molto cool, era cool molto negli cool. anni 2000, per cui ormai che sono passati 20 anni. No, dai, entriamo nel vivo della puntata. Entriamo. Perché abbiamo delle meravigliose ospitesse che hanno un sacco di roba da raccontare. Che però in realtà ci portano messaggi importantissimi. Infatti, Roberta e Annalisa sono psicoterapeute. Ha detto così, fa veramente cena. Sì. Laura Voltolina. È una semplice. No. Ho capito, però anche tu. Dai. Com'è che si dice yogica? È una maestra. Un insegnante di yoga. Però è un po' di più, perché c'è ricerca attiva. No, qui c'è la ricerca. Allora, comincio a rotolare un po'. È una curiosa ricercatrice. Ti rotolo un po' più vicino al microfono. Rotola che più vicino. Ciao. Avvicinati. E quindi, fra l'altro. È una distanza di rispetto. Appunto. Diamoci del voi. E qui abbiamo un sacco di eventi che animeranno sotto questi profili e offriranno opportunità di incontro. Alla popolazione. A tutti. A chi vuole. Di tutti i generi, quasi. Sì. Quasi. Tanto, scusate, ma la popolazione che viene ai vostri eventi è prettamente femminile. Qualche uomo, però la quota zira, sì. Però arriva perché ha dei secondi figli, lo sappiamo tutti. Appunto, il pasquino della situazione. Esatto. Cioè, come se, esatto. La volta che vengo anch'io, sapete già perché sono lì. Allora, facciamo un pochino un cappello. Diciamo che è ora del cappello. Annalisa e Roberta ci parleranno di Lettura e Psiche, un ciclo di incontri che poi andremo a vedere nello specifico, che è già cominciato ma che continuerà ancora per i prossimi lunedì e giovedì fino al 9 dicembre. Esatto. Laura Voltolina ci parlerà di un altro ciclo di eventi, incontri, questa volta finalizzato a un pubblico femminile, partecipanti femminili, sì. Perché è una partecipazione attiva, sì. E che comincerà da sabato 30 novembre e andrà avanti per 4 mesi con scadenza mensile. Per cui per 4 mesi avremo la Voltolina a coxo spaziale? Questo non lo so, però mi farebbe molto piacere. Chiediamo a Gifo se è d'accordo. Gifo, sei d'accordo? Chi lo sa? Adesso vediamo se risponde. Musica, maestro, metto una canzone che si chiama Attraction. Che sfumeremo quasi subito. L'ho scelta apposta. The attraction makes us feel like we're free falling. Everything is perfect with you. Lightning's hit the ground, but we're gonna go on. We're faster than we've ever been before. Unstoppable. Just the two of us, unstoppable. che portavi troppo bene il W e quindi ce l'ha presa. Cosa facciamo? La sfumiamo? La sfumiamola, dai. Ma stava per finire. Allora, il 288esimo, l'ho detto giusto! Senti come battono la batteria, è un momento proprio... Ma io intanto comincerei, visto che tempo fa... si chiamano all to get, cioè sono proprio apposta. Sono, vabbè, tutti insieme, attorno alla battaglia. Adesso cominciamo a tenere sono il polso. Sono Serena Abrami e ascolto Coxo Spaziale. Ciao, oh. Serena. Ciao Serena. Ciao. Siamo contenti che ci ascolti. Una donna. Esatto. Allora, e quindi cominciamo ad entrare nel vivo. Io comincerei con letture psiche. Okay. Quindi chiederei un pochino a Roberta Ricci di raccontarci come nasce questo ciclo di incontri. Ok, allora, questo ciclo di incontri è la sua seconda edizione. Quindi lo abbiamo riproposto. Nasce sempre con l'associazione Progetto Psicologia e nasce un po' sull'idea di raccontare la psicologia attraverso la letteratura. Come ben sappiamo, l'arte ha una valenza terapeutica molto forte e la narrazione è alla base della terapia. Quando si è in uno studio con uno psicoterapeuta, quello che accade è proprio rinarrare la propria storia. Quindi abbiamo deciso di mettere un po' insieme questi due aspetti, la narrazione e la psicologia. L'anno scorso era nato in una maniera un po' diversa, nel senso che aveva come luogo di incontro le biblioteche. Quest'anno gli abbiamo dato una valenza ancora più nuova e abbiamo deciso di appoggiarci al Dandy Caffè Letterario. E infatti alle 19 c'è anche la possibilità di fare l'aperitivo per chi viene. Assolutamente, infatti abbiamo messo insieme quello che a me piace un po' definire il cibo per la mente, il cibo per l'anima e il cibo per il corpo. Sì, anche e un po' di alcol. E un po' di alcol che annaffia sempre. E la botta per il fegato, che a me, che sono veneta, ha una certa fascino e importanza. Diciamo che annaffia bene tutto quanto. E quindi noi ci troviamo tutti i lunedì e i giovedì alle 19 fino al 9 di dicembre, come dicevi tu, al Dandy Caffè Letterario, e ognuno di noi, quindi sono in tutto 7 incontri. Quindi siete 7 colleghe? Siamo 7 colleghi perché c'è un uomo. No, la quota azzurra. La quota azzurra. Sempre lei, quindi dobbiamo darci del colleghi. Comunque sarà dispiaciuto di esserci. Per rovinare. Tra l'altro stasera c'è un bellissimo incontro che adesso dovrebbe essere in atto. Sì. Con una dottoressa Isadora Fortino che appunto sta raccontando di un libro francese che si chiama Noit Moi. E invece io so che giovedì scorso c'è stato il tuo libro. Giovedì scorso, il mio libro, cioè, ho portato la tua proposta. La mia proposta. Io ho portato un libro che è abbastanza conosciuto, soprattutto in ambito femminile, che è La principessa che credeva nelle favole. Oh. Che è un libro molto carino, molto fantasioso, insomma è raccontato un po' come una favola, come dice un po' il titolo, ed è proprio la storia della ricerca del lieto fine, e non sempre il lieto fine è quello che ci aspettiamo, ma non è detto che un lieto fine diverso sia meno lieto di quello che ci siamo aspettati. Sì. Storie di vita vissuta, sappiamo qualcosa tutte noi. Sì. No, a questo punto io passerei la palla a Annalisa Amadesi, che sarà la prossima a presentare in questa situazione aperitivo serale il proprio libro, nel senso non suo, non il mio, ma di Chiara Gamberale. Quindi questo giovedì 28, sempre alle 19, porterò insomma il libro di Chiara, che perché è quasi una mia amica, che si intitola Per 10 minuti. È un libro scritto qualche anno fa, in realtà, e rappresenta un po' il diario di un mese di vita di Chiara a seguito di 3 eventi difficili di vita che si trova appunto a vivere sulla sua pelle. il marito del quale era innamoratissima la lascia improvvisamente dicendo che ha capito che sta meglio senza di lei, perde la collaborazione con una rivista e fa molta fatica a vivere a Roma perché appunto si era trasferita lì col marito dopo per il lavoro quindi cioè, che più ne ha più ne metta sostanzialmente e da un po' di tempo va in psicoterapia e la sua psicoterapeuta le suggerisce di fare un gioco e le dice: Chiara, levasse per 30 giorni ogni giorno per 10 minuti si inventa qualcosa di nuovo da fare, una cosa che non ha mai fatto, qualcosa di semplice, qualcosa di complicato, decida lei, però deve essere una cosa nuova. E Chiara inizia a giocare. È un lavoro. 30 tutti i giorni. Sembra una cosa banale, è un gioco di fatto, ma è un gioco impegnativo. Bello. Che poi veicola dei significati importanti, perché lei di 10 minuti in 10 minuti in realtà davvero arriva a riscoprire una parte di sé, a riscoprire una Chiara, perché anche l'autrice, scusate, la protagonista si chiama, guarda caso, Chiara come l'autrice, quindi è un libro un po' autobiografico. Non sei neanche, esatto, neanche, un attimino. Esatto. Proprio l'amica Chiara. Siamo un po' tutte Chiara alla fine. Esatto, è un libro nel quale infatti ci possiamo anche davvero Pasquini. Tutte e tutti un po' identificare, perché va a toccare insomma delle tematiche davvero di vita vissuta in un modo leggero, in un modo semplice, come Chiara Gamberale fa. Il suo stile è un po' questo, però è uno stile comunque pieno di riflessioni, di significati. A questo punto coglierei l'occasione tramite il tuo prossimo evento per andare un pochino più a grattare sopra la superficie e vedere dov'è il link tra questa operazione di condividere una letteratura, un brano letterario, poi non lo so se farete delle letture dal sì, libro. Sì, certo. Quindi diciamo che magari tu vai ad estrarre dal libro quei passaggi che ti permettono poi di introdurre qualcosa delle di più specifico. Esatto, okay. Delle riflessioni psicologiche esistenziali, come ad esempio la resilienza, no? Che è una capacità che tutti noi insita nell'essere umano di poter costruire poi qualcosa di buono per se stessi a partire magari proprio da un momento di vita difficile. Ok, allora facciamo così, siccome non vogliamo spoilerare giovedì, poi magari questa domanda su come ha funzionato il meccanismo la rigiriamo a Roberta sulla base dell'esperienza che ha fatto giovedì scorso. E invece rispetto al tema di fare cose nuove che non sono mai state fatte prima, io sono andata ad una presentazione yoga di una certa Laura Voltolina. Ho delle foto che lo testimoniano. Okay. Ed io che avevo sempre evitato, come non lo so, fossi un gatto l'acqua, tutte le cose di yoga, ho scoperto che in realtà può essere anche interessante, oltre che particolarmente disegnata in questa occasione per la mia femminilità. Non Laura, ho capito. Adesso capirai, perché adesso Laura comincerà con questo ciclo di eventi dal 30, quindi da sabato prossimo è il primo. Sono 4 incontri, abbiamo uno sabato prossimo che è fine novembre, saltiamo dicembre che è un mese complicato per fare e cose, considerando che oggi è una giornata importante per noi donne e oggi è una giornata importante per tutti in realtà, perché la giornata internazionale contro la violenza sulle donne non riguarda soltanto le donne ovviamente, no. Purtroppo, ma anche per fortuna, perché insomma c'è un po' di movimento. Ho sentito il telegiornale venendo e l'Istat dice che l'Italia conferma che l'Italia è messa malissimo da questo punto di vista, perché 7 intervistati maschi su 10 ritengano accettabile prendere a ceffoni la propria fidanzata. Non è male. No, interessante. Serve del lavoro, ecco. Serve del lavoro e secondo me in questo tema serve del lavoro, ok, l'uomo, ma serve del lavoro anche di autocoscienza. Indubbiamente. Serve a tutti, per questo dicevo a tutti. Però e allora, lavoro adesso. Scusami se ti... Va bene. Lo dicevamo con Annalisa prima di andare in onda, che questo lavoro qui, quello che faccio io quantomeno, il tipo di contributo che posso dare io alla comunità nel mio mestiere è stato, è questo, ed è di lavorare sulle donne per la loro consapevolezza intanto corporea, perché poi diventa come un'app sul cellulare e ce l'hai, cioè mi sviluppo un po' di... consapevolezza, almeno nello yoga. Mm-hmm. Vado al mio corso di yoga con il mio maestro, la mia maestra di sempre. Mi propone quella cosa lì, che possa essere una posizione, un movimento, una respirazione. Io mi ascolto abbastanza bene da poter dire, da autorizzarmi a dire: guarda, questa non la faccio, oppure qui ci sto un po' di più. Perché sto su quello che veramente mi serve, e non è detto che l'altra persona, che sia l'insegnante di yoga, il medico, cioè, non è detto che lo sappia. Mm-hmm. Non sempre lo sa, ci prova. E se sviluppo questo tipo di consapevolezza, di capacità nelle donne un po' più a lungo, in maniera più completa, ho più possibilità che le donne, cioè la nostra generazione, considerato che è andata da questo punto, cioè, dal punto di vista della crescita collettiva, noi abbiamo fatto quello che si riusciva, certo che cresciamo individualmente, ma le cose sono in mano ad altre generazioni. Quello che posso fare io, e che cerco di fare io, è: ok, ho 20 donne, 10 donne in questo cerchio, magari se ne vanno a casa dopo questo percorso, durante questo percorso, con dei pezzi di sé, sono un po' più intere, un po' più consapevoli. Con i loro figli maschi e le loro figlie femmine saranno delle persone un po' più consapevoli. È più facile che la prossima generazione se la cavi meglio. In questo senso è un lavoro di polis, cioè di politica nel senso greco, nel senso di cura della collettività, non di che partiti. Infatti nel tuo lavoro la grecità e la mitologia, così come nel vostro, la narrazione, una delle cifre del mio lavoro è la narrazione. La narrazione dell'archetipo e la narrazione della storia. Coxo spaziale. Emilio, ci porti l'Ambro Spritz? Eccolo. Sito www.radiocittafugico.it. Coxo spaziale. Coxo spaziale. Stefano, il 288esimo coxo alle menzioni. Alle menzioni, cavoli, come facciamo? L'angolo della menzione. E chi le legge? Mercoledì 27 novembre, ore 23. Ping pong sofa, hosted by Vaticana. Andrea Renzini, il bello dell'arte contemporanea. Oh, hell plays yeah. Transformer over and guitar. Stefano Passini plays drums and electronics treatments. Brexit, strada maggiore, due volte Bologna, Italy. Esatto, non si sa neanche. Non si sa. Il numero civico, niente. Non si sa niente. Segui il suono. C'è Loccorto Film Festival al Teatro. Però San bisogna Leonardo, dire il giorno. Scusate, giovedì 28 novembre ore 16. Bravo. Yeah. Grazie. Dal 28 al 30 novembre 2019, 3 giorni di incontri e proiezioni strutturate in 5 sezioni. Il festival nasce con l'obiettivo di dare visibilità a cortometraggi indipendenti di giovani autori e di creare momenti di confronto e dibattito sul cinema. Naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com domani troverete il link per il programma completo. Già domani. Sempre giovedì 28 novembre alle 18:30 al Mambo in via Don Menzoni 14, Cesare Pietro Iusti, luogo delle muse, talk. Il pubblico è invitato a intervenire a una tavola rotonda durante la quale saranno riaffrontate, rielaborate e riattualizzate le tematiche relative al museo e le 8 possibili caratteristiche positive proposte dell'artista: ospitalità, residenzialità, utilizzabilità, produttività, polisensorialità, permeabilità, leggerezza, polidisciplinarietà. Ritenendo la definizione di museo necessaria al fine di distinguerlo e caratterizzarlo rispetto ad altri istituti culturali, quali credete siano gli elementi che non possono mancare per una possibile descrizione di museo contemporaneo? Il dibattito al Mambo partirà da questa domanda ed è concepito come una conversazione informale, aperta agli interventi del pubblico. Io vorrei un applauso. Bravissima. Adesso mi fai la parafrasi, mi spieghi tutto il significato. Venerdì 29 novembre alle 20:30, vieni a cena con la redazione di Radio Città Fuji. A grande richiesta, anche quest'autunno tornano le cene di autofinanziamento per sostenere la tua emittente indipendente. L'appuntamento è fissato per venerdì 29 novembre alle 20.30 presso Offside Pescarola, il nuovo spazio che ha aperto in via Zanardi 230/2, vicino alla sede della radio, infatti qua dietro. Tocca a me, l'ultimo? Vai. Vado. E invece domenica 1 dicembre alle 18.15. E dunque, la città di Bologna con Inventario Pozzati rende omaggio all'artista Concetto Pozzati. Pozzati. Sono stato bravo. Pozzati. Sì. Domenica 1 dicembre, in occasione della ricorrenza del compleanno di Concetto Pozzati, alle 18.15 il Mambo ospita la presentazione con Brindisi del progetto alla biblioteca Emeroteca del museo, in cui ha sede il fondo Concetto Pozzati. La presentazione aperta al pubblico ad ingresso libero. Segue alle 20 al Cinema Lumière, Cineteca di Bologna, la proiezione di A che punto siamo con i fiori, Concetto Pozzati, dialogo per segni e materia, documentario inedito a cura di Carlotta Cicci e Stefano Massari, che cura anche la regia. Il documentario, adesso vi abbasso, è stato realizzato nello studio dell'artista poco prima della sua scomparsa. Ma le menzioni non sono finite perché poi abbiamo anche sicuramente giovedì 28 Annalisa Amadesi, che al Dandy Caffè Letterario di Via delle Grate alle ore 19 presenterà il prossimo incontro di letture psiche. E, il titolo, mi ripeti qual era? Si chiama Se il titolo è Cadere per potersi rialzare, il cambiamento di sé e la psicoterapia come strumenti di cura a seguito di un evento difficile. Non riesco a scriverlo così velocemente. No, vai, lo devi scrivere. Devi andare. Ricomincio. Va bene, però posso fare così. Invece il 30 novembre alle ore dalle 15 alle 18 all'associazione Cielo, che è in via San Simone 5 in centro a Bologna, sabato 30 novembre, okay. Iniziamo la luna nel pozzo, il percorso in 4 incontri di yoga per la donna. Il primo incontro è dedicato alla luna crescente, cioè alla preovulazione. E sono benvenute anche le donne in menopausa, che hanno un sacco di informazioni. I maschi no. Maschi no. Ma quindi riprendiamo il filo della 288esima puntata di Coxo Spaziale? Certo, siamo ready. Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Coxo Spaziale 288. E noi ci connettiamo subito a busso con la nostra ospitessa Roberta Ricci, che per darci un esempio concreto di come questi incontri di letture psiche funzionano, ci farà un resumé di quello che è successo giovedì scorso. Allora, cosa è successo giovedì scorso? Siamo pronti. Sarebbe bello che vedeste la gente. Il non verbale, sì. No, giovedì scorso è accaduto questo. Eravamo 25 persone, quindi un bel numero. E tutto è partito dalla lettura di alcuni pezzi di questo libro, che appunto si intitola La principessa che credeva nelle favole. A me piace molto la frase di una scrittrice francese che è Régine de Tambelle, che dice i libri si prendono, che ha scritto un volume che si intitola I libri si prendono cura di noi. E dice proprio che come le emozioni e i sentimenti si colgono e possono essere curati e accuditi dalla parola scritta. Coxo spaziale! E proprio attraverso ogni tanto questo ci vuole, perché non si sa mai che qualcuno si dimentichi che cosa stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando Roberta Ricci, che ci sta a spiegare della lettura della psiche. Appunto. La frase, eravamo sull'orlo di una citazione. Così è stata rovinata. L'ha preparata, lascia stare. Era studiata. Attraverso le parole scritte noi possiamo permetterci di dire quello che non ci sentiamo di dire, di parlare di noi in maniera più leggera, perché qualcun altro si è permesso di scriverlo e di dirlo, quindi è accettabile. E quindi ci permettiamo anche di raccontare quelle che sono le nostre difficoltà. Attraverso il libro proprio le persone si riconoscono e si permettono di aprirsi nella descrizione di storie che sono molto loro, grazie proprio all'immedesimazione nel personaggio del libro o in quello che capita nel libro. Per cui quello che è accaduto è stato proprio questo: le persone si sono ritrovate in Victoria, che invece è la protagonista del libro che ho portato io, che anche lei vive in una realtà un po' particolare. Quindi diciamo che tu hai estratto dei pezzi del libro e in ciascuno ti dava l'occasione per sviluppare un tema. Ad esempio, esatto, quali hai trattato rispetto a quella che poi è la tua professione, la tua ricerca? Ho trattato una cosa molto divertente, che è il mito e il mandato familiare. Quindi che cosa la famiglia si aspetta da te. Zio Billy una cosuccia, una roba da niente, ma sì, all'aperitivo. Quanti spritz? Ecco perché l'alcol, infatti. No, capisco perché vi siete spostati dalla biblioteca al locale. Esatto. Ho parlato di come il bambino si struttura nell'infanzia, per cui un po' l'idea che ognuno di noi ha un libro e le 50-100 pagine del nostro libro personale vengono scritte in realtà da qualcun altro, quindi dai nostri genitori, e di come il bambino cresce nel tentativo di cercare approvazione, di come il bambino cresce rispetto ai risultati e il paragone. Quindi quando mamma e papà ci dicevano: come è andata a scuola? Ho preso 8. E Luisa quanto ha preso? 9. Perché tu hai preso meno di Luisa? Il paragone, il risultato: hai preso 8, è andata bene, hai preso 4, non va bene. Quindi come i genitori ci poi strutturano la nostra crescita e la visione che noi abbiamo di noi stessi, e come questo ci porta spesso ad annegare parti di noi, a soffocare parti di noi, che però a un certo punto esplodono e hanno bisogno di riemergere, e come questa lotta poi diventa una lotta interna molto forte. E di come invece poi imparare a prendersi cura della parte bambina di noi, cioè dei nostri sogni, dei nostri desideri, diventa fondamentale. E lì c'è proprio la rinascita. Victoria fa un viaggio molto bello nel libro, attraversa diversi paesaggi, diverse situazioni, e proprio si dà il permesso di ritrovare il contatto con se stessa, con quello che voleva fare, voleva essere e desidera fare ed essere. Beh, Roberta, grazie, mi sembra che posso il meccanismo, certo. Ma queste 25 persone che c'erano, poi a un certo punto è diventato, cioè c'erano loro, i loro bambini, i loro genitori, tutti c'era un affollamento di gente infinito. Sì, perché poi in realtà sono venuti fuori poi un po' parti di problematizzazione, vanno raccontato un sono po'. Stati molto bravi, nel senso che hanno tirato fuori cose senza però entrare nella problematicità, perché sì, comunque sparare. Esatto, perché comunque sono incontri dove si cerca di parlare di certe cose senza entrare poi troppo nel personale, perché non c'è il tempo per starci in questa roba. Però sì, bello. Io dico sempre, no, che in terapia siamo in due, più tutti gli antenati da una parte, tutti gli antenati dall'altra e tutte le persone che ci circondano. La famosa polis ritorna sempre. Told me what that dream was about, and I keep trying, but I can't shake it out. You know, you know, you know, you know, you know, you know. The trailer bodies, but I can't seem to find someone to fill the space that you left behind. You know, you know, you know. You know, you left it out. anche già la rubrica Donne al volante. No, sì, no, telefonate, no, mentre io, sì, sono sulla Padova Bologna e lei sulla Bologna Milano. Straziati sti maschi, deboliti. Com'è? Cos'è che fate sti maschi? Straziati. Quella famosa quota azzurra. Bene, siamo ritornati in onda. Siamo per ritornati in onda. L'ultimo slot del 288esimo coxo che sta finendo ancora prima di essere cominciato, mi sembra. Lampo. E allora, è stato velocissimo. Prontamente, visto che adesso Roberta Ricci. Cosa sono tutte queste cose? Che come, sì, come al solito il nostro mixer non ogni entriamo tanto. Negli specifici. Esatto. Pensavi di essere così. Regia tu. No, ho dovuto allora dargli qualche colpetto perché altrimenti si sentiva solo tramite l'altro microfono. Fortuna che abbiamo tre microfoni. Roberta Ricci ci ha fatto una sorta di esempio rispetto all'incontro che ha curato lo scorso giovedì e di come funziona la struttura dei singoli incontri di letture psiche. Poi finito di chiacchierare si mangia e si beve. Anche un po' prima. No, alla fine. Come alla fine. Come regalo. Vabbè, alla fine. Ok. Il prossimo giovedì 28, avremo Annalisa Amadesi con il suo libro, cioè il libro dell'autrice che lei ha scelto, della nostra amica Chiara. E non vogliamo spoilerare nulla perché è anche sorpresa. Quello importante. Allora ho chiesto a lei di farci un racconto di quelli che sono gli appuntamenti che verranno e anche quelli già stati, perché ciascun appuntamento è stato gestito da una collega. Certo. Sì. Riparto dall'inizio, allora, sì. Lunedì 18 novembre c'è stato l'incontro dal titolo Il prendersi cura come via di accesso al proprio mondo emotivo, spunti da 25 grammi di felicità di Vacchetta, a cura della dottoressa Micaela Monti, psicologa. Giovedì 21 novembre abbiamo avuto Roberta Ricci, posso ripetere il titolo? Un viaggio coinvolgente ed ironico alla scoperta della vita e dell'amore, spunti dalla principessa che credeva nelle favole di Powers. Diciamo l'altro le due volte perché è corto, no? Sembra quasi una tua menzione. Adesso in corso abbiamo detto c'è la dottoressa Isabella Fortino, psicologa psicoterapeuta, Isadora Fortino, psicologa psicoterapeuta, il titolo è Basta davvero a me stesso, l'importanza dell'incontro con l'altro per la crescita della propria identità. Il libro è No et moi di David Gunn. Giovedì c'è il mio, non starei a ripetere il titolo del libro, l'abbiamo già detto. Lunedì 2 dicembre abbiamo il dottor Mauro Favaloro, psicologo psicoterapeuta, esatto. Il titolo è Attraversare la vita quando si fa cattiva, buia, scialba o smarrita, spunti da Il male oscuro di Berto e un altro libro, quindi lui due libri, Una malattia chiamata devo uomo. Devo sempre strafare questi uomini, no? Insomma, la quota azzurra in qualche modo deve distinguersi. Poi abbiamo giovedì 5 dicembre la dottoressa Denita Bace, psicologa psicoterapeuta, con La sindrome del brutto anatroccolo, la difficoltà di amare se stessi, la propria autenticità e di farsi amare dagli altri, spunti dalla fiaba di Andersen, molto bello anche questo. Vabbè. Lunedì 9 dicembre, ultimo ma non per importanza, abbiamo Esplorare le diverse parti del sé osservando cosa accade quando la lotta è interna a noi, spunti da Fight Club di Palahniuk, a cura della dottoressa Eliana Pellegrini, psicologa psicoterapeuta. Bravissima, bello. Bravissima. Ma bello anche questo percorso. E adesso? Adesso cosa facciamo? Ah, no, abbiamo un altro recap di quelli che saranno i prossimi incontri della Luna nel Pozzo, il ciclo di incontri di yoga per la donna di Laura Voltolina, che quindi 30 novembre partiamo con la luna crescente che è la preovulazione, a fine gennaio, mi pare sia il 25 di gennaio. che è sempre un sabato, quindi se non è il 25, 26, insomma, è l'ultimo sabato di gennaio, sempre dalle 15 alle 18. C'è arte fiera. La luna piena. Mi dispiace. Vabbè, ma comunque non saresti venuto. Quindi... No, ma infatti. Poi è solo sabato pomeriggio, cioè sono tre ore. Non è che. Se non andate ad arte fiera, venite alla luna nel pozzo. Oppure fate l'una e l'altra. La luna piena, che invece è l'incontro è dedicato all'ovulazione. Il 29 di febbraio c'è il terzo incontro, che è un incontro fighissimo. È quello dedicato a luna calante, è la premestruale, non la sindrome premestruale, ma la fase premestruale. Ed è sempre molto scoppiettante come incontro. E l'ultimo incontro è il 28 di marzo con la luna nuova, le mestruazioni. Un gruppo di donne premestro che si rivivono la loro. Beh, no, in realtà cioè moltissime delle difficoltà che abbiamo nella fase premestruale è il non accettare il fatto che non pompiamo più come pompiamo quando siamo in ovulazione. Una grossa fetta, non è tutto, però è una grossa fetta. Quindi 9 su 10 ti rendi conto che è solo la premestruale che poi torna. Cioè, basta dirselo. Innanzitutto, lo accetti? Innanzitutto io ringrazio tantissimo Laura Voltolina per aver portato la parola mestruale in un programma radio, questa grande parola rimossa. Non si poteva. Ah, no, okay. No, è rimossa come dobbiamo ovviamente, infatti ragazzi, siamo mestruazioni apposta. Ragazzi, dobbiamo fare un movimento di raccolta firme, magari anche portando avanti culturalmente con degli eventi, per fare in modo che tutto ciò che sia legato alla condizione della, cioè tutti anche gli oggetti che servono per gestirla siano tassati in una maniera civile, non come il cartone. La finta è stata fatta, ma appunto è solo non solo la raccolta firma è stata fatta, ma c'era un'interrogazione parlamentare, sì, che è stata cassata la settimana, 10 giorni fa. Ridiamoci dentro, ridiamoci dentro. Ho visto da qualche parte anche un'altra domanda che hanno fatto, credo in Danimarca, forse in Spagna. Questa idea grandiosa, hanno fatto un libro con dentro i Tampax, di modo che è venduto tassato, come libro, per cui viene tassato al 4%. Ah, in Italia perché in Spagna non è tassato tanto quanto da noi, però non mi ricordo più, perché la tassa sui libri è il 4%, la tassa sui Tampax è il 22%. Sì, esatto. È una roba, perché è un bene di lusso. Esatto. Invece abbiamo scoperto recentemente, per una serie di vicende che ci siamo raccontate Federe e io, che invece i pannoloni per la terza età, per l'incontinenza, le mutandone per l'incontinenza sono passate dalla mutua. Quelle lì sono perché quelle non le compri una volta al mese, quelle ce n'hai bisogno per un'altra cosa che posso aggiungere sarebbe anche sarebbero anche certi contraccettivi. Cavoli. Anche la contraccezione insieme alla parola mestruazione, in questo paese. A proposito, quelle sono cose che non dovete fare. No. Lasciamo stare. Ho una domanda. Infatti, non parliamo di contraccettivi, che Pasquini di età del vetro poi già soffre. No, allora la domanda è: tutti questi incontri con questi nomi che sono incentrati sulle fasi dell'ovulazione. Però cosa si fa per tre ore lì dentro? No. Come questi incontri possono essere utili ad una signora, ad una donna che non è più che è entrata in menopausa? Sono utili perché anche se sei in menopausa hai comunque la memoria di 30 anni di cicli mensili, quindi che sono veramente tanti. Hai comunque i canali, magari anche certe volte le menopause non sono fisiologiche, sono avventure che sono capitate per questioni di malattie o di intoppi, diciamo. Per cui anche se dovesse essere che non hai l'utero, non hai le ovaie fisicamente, hai i canali energetici, hai la tua memoria. E stare lì nel gruppo, cioè, e lavorare su questi elementi con lo yoga, con la respirazione, con la narrazione e il percorso dell'archetipo, ti porta a riraccontarti il tuo periodo fertile e quindi a riviverlo in maniera costruttiva. È un po', prima Roberta hai dato una definizione della terapia dicendo: beh, la terapia è la narrazione, e nel narrarti ti riaggiusti, cambi il tuo passato. È un modo anche per cambiare il passato e per passare informazioni interessanti alle donne ancora fertili o molto giovani che invece sono lì, e fare creare un po' di continuità che nella nostra società manca. Grazie. Bravissima. Io credo che questa sia la cosa più bella. No, no. A che punto siamo, Pasquini? Siamo al 19:52. Noi dal 54? No, noi alle 19:54. Però ci sono 28 gradi. Ci sono 28 gradi sia di qua. Confermi? Sì, te lo confermo. Sì, no, qua da questa parte 29, ma sapete vabbè, com'è. Ma sei sempre il solito. È normale, cioè io vi vedo attraverso il vetro. Ci sono novità da Gifo? No, Gifo non pervenuto stasera. Vorrei dire una cosa che secondo me unisce un po' poi anche col 25, la giornata contro la violenza sulle donne, no? Quello che dicevamo un po' prima scherzando, la quota azzurra, comunque l'incontro di donne secondo me è estremamente importante, si crea un sacco di valore. Noi donne dobbiamo imparare a sostenerci una con l'altra. Grazie. E credo che questi incontri, al di là degli scherzi, siano veramente importanti, sì, perché creano quello che non c'è più nella nostra società, cioè il fatto che le donne insieme possono essere una grandissima potenza, una grandissima forza. E secondo me questa cosa che manca, appunto, questo tipo di incontri, anche il fatto semplicemente che il tema delle mestruazioni sia un grande rimosso, e secondo me entra sempre nella questione della violenza, e una delle violenze principali è quella che ciascuna donna fa a se stessa proprio per essere donna e gestirlo in maniera inadeguata. Sì, perché alcune cose non si possono dire, non si possono raccontare, non si possono... Perché fanno parte della nostra vita, fanno parte della nostra femminilità. La società ti chiede di essere costante, di avere prestazioni costanti, di lavorare lo stesso numero di ore tutti i giorni, insomma è una cosa che viviamo tutti, uomini e donne. Non ti viene spiegato la tua ciclicità che ti rende incostante, che vuol dire però che dei picchi di produttività, paura, dei momenti di nello stesso arco del mese, di un mese, di 5 settimane, e nello stesso arco della vita, ti mette in conflitto costante con la tua ciclicità, e quindi la neghi e ti appunto poi vengono fuori sentire anche inadeguata, una no? serie magari di da questo punto di vista. Qui si parte dal corpo per lavorare su tutto, poi alla fine come si parte da un libro per lavorare su tutto. Sì, sono spunti. Che dici là dal vetro? Dico che siete state brave. Allora, delle donne. Cominciamo con il triste momento dei saluti coccici. Cominciamo. Allora, in qualità. Voglio dire, è andata benissimo. Che problema appunto. Hai? No, va bene. Allora, spaziale ritorna lunedì prossimo. Ringraziamo alle 19, tantissimo, però non ci saranno più Annalisa Madesi, Roberta Ricci, ma Laura Volpeci. Sì, la motolina ormai non ce la scolliamo di dosso. Per cui. No, allora, carissima Roberta Ricci, grazie per essere ritornata, grazie per aver esteso l'invito ad Annalisa Madesi, grazie per aver organizzato Letture Psiche insieme alle vostre colleghe più Quota Azzurra. Sì. E invece la Voltolino. Cioè Pasquini non c'è. Guarda, vengo lunedì, finisco di lavorare a Teolo alle 11, però io arrivo. Ti aspettiamo. E questo 280esimo l'aveva detta giusta un sacco due di volte, l'ho detta giusta. più di due volte, almeno quattro. Sarà grazie alla nostra quota azzurra con Investe W Pasquini Perenne, e online da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, dove potrete riascoltare questa super mega galattica puntata con le nostre super mega galattiche ospitesse e con questa fantastica musica di sottofondo e tutti i link degli eventi di cui abbiamo parlato per non perderci di vista. E dunque ringraziamo anche Fedra Boschero che ci ha fatto da conduttrice. Anfitrione. Io non ho detto praticamente niente. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Deals on the rock. world.